muro tenente. Muro tenente è spazzato da una pioggia fitta, spinta dal vento che ulula tra gli alberi e i confini del sito. Valeria Vanderlin, la dottoranda della squadra dell'Università di Amsterdam, è sola nel container che funge da ufficio e dormitorio occasionale. Il suo compito è di presidiare la tomba individuata quel pomeriggio per evitare violazione a opera dei tombaroli. La tomba, coperta da una lastra di pietra, è situata sotto l'abitazione. È una delle lastre che i messapi non avevano usato per rinforzare le mura di cinta durante la guerra punica in cui si erano alleati con Annibale. L'inquietudine dovuta al vento e alla notte senza luna si sta trasformando in paura. I compagni dell'università dovrebbero arrivare tra poco con i viveri. In una pausa dell'attività del vento le sembra di sentire un rumore di un motore. Si infila la giacca a vento ed esce dal container. L'impatto con il freddo, nonostante sia luglio, la fa rabbrividire. Anche il libro sulle guerre puniche che sta leggendo, prima di passare ai fumetti di Charlie Brown, non ha svolto un ruolo tranquillizzante. È proprio una notte buia e tempestosa. Per un attimo pensa, con un certo autolesionismo, a una squadra di guerrieri messapici a cavallo che fa irruzione nella città dopo aver combattuto contro i romani. Le pare di sentire dei passi. Un brivido la scuote, accende la pila e grida il nome di uno dei suoi colleghi. I passi si avvicinano e un braccio le circonda il collo. Un tampone le copre la bocca e il naso. La sua mente svanisce nel nulla. L'uomo più grosso la deposita a terra con inaspettata delicatezza e poi fa un cenno ai suoi complici. Il magro lungo estrae un potente trapano a batterie e lo mette in azione sopra la lastra tombale. In meno di 5 minuti il foro è fatto. Il terzo, quello piccolo e smilzo, introduce la telecamera già collegata al visore ed esplora il vano. Sotto uno strato di polvere si intravedono le sagome di alcuni vasi. Scavano lateralmente sotto la lastra. Il terreno era già stato mosso dagli studenti. In poco tempo è pronta l'apertura nel muro di contenimento in sassi. Lo smilzo, che non ha problemi di claustrofobia, si infila con una torcia nella tomba. Uno alla volta passa con delicatezza attraverso il foro, i vasi e un cofano con monete d'argento. Dal numero dei crescenti, le mezze lune sulle monete, si è potuto appurare che il conio era proprio della città-stato Samadi. Da poco era stato attribuito il nome all'antica città messapica che sorgeva sul sito denominato oggi Muro Tenente. Il grosso e il magro sistemano con attenzione tutto il materiale della tomba in 2 valigie d'alluminio foderate di gomma piuma. La radio gracchia, avvertendoli che erano arrivati al parcheggio i ragazzi con la moto. La troupe si dirige velocemente verso il lato opposto dell'entrata, dove è situato il terrapieno residuo di vecchie mura. Quindi un romanzo giallo che ha una sua particolarità perché parte da Bolzano. Avete sentito delle cose che si riferiscono al sud, alla Magna Grecia, più o meno. Quello è oggi si dice location, perché è difficile dire posto, località o zona o territorio. No, siamo un po' anglofoni, quindi una location. Dunque è un giallo che ha delle caratteristiche particolari che a me piacciono e vi dico subito perché. Perché è un giallo italiano. Siamo abituati moltissimo, da sempre direi, ai gialli di matrice anglica, no? Conan Doyle, Agatha Christie, dei grandi classici che ci hanno lasciato, raccontato molte cose, molte vicende, ma Alberto Sollici, che è un amante del sud, abita a Stromboli, E quando recentemente c'è stato un piccolo terremotino con effusione di lava a Stromboli, è stato raggiunto telefonicamente assieme a Giovanna dall'Alto Adige per avere le notizie in esclusiva su quella realtà. Lui ama il sud, ama Stromboli dove è a casa, gira per il sud. Io posso dire di amare ugualmente, forse più di lui, il sud, perché sono di matrice calabra addirittura, anche se non sembra. E quindi in questi romanzi, in questo romanzo in particolare, mi sento in un certo senso a casa mia due volte. La prima volta perché il libro parte da Bolzano, per assurdo che possa sembrare, parte da qui. E questo è bello, perché è difficile leggere un giallo su Bolzano, no? Io una volta ne ho letto uno che avevo scritto io e che aveva come titolo Requiem a Bolzano. Questa è la seconda volta che mi pare perlomeno sia così, che mi accade di leggere di strade di Bolzano, di un ristorante di Bolzano, di una realtà bolzanina nella quale mi identifico, mentre solitamente ci si deve spostare a New York, non so dove, a Londra, a Parigi, per assaporare i profumi di quelle zone. Questa volta Alberto Soligi parte da Bolzano e approda al sud, in questo nostro caro amato sud, del quale qui nel libro traspirano i profumi. Perché Alberto descrive il sud e te lo fa godere, lo vedi, vedi queste campagne, vedi, e senti anche i profumi. Addirittura è giunto al punto, ne parlavo poco fa prima, di descrivere alcune pietanze del sud, alcuni, usiamo il termine menù, ma non dovrebbe essere questo il termine esatto, dai quali trasluce questo profumo di origano, di melanzana, di basilico, tutto quello che volete che sa di profumo, e sono i profumi assolati del Mediterraneo e del nostro sud in particolare. I pomodori del sud non sono come i pomodori del nostro sud, non sono come pomodori qualsiasi. Ecco, siamo qua per parlare di un giallo, io parlo di pomodori. Però una cosa voglio dire, questi profumi che il sud ci offre, che il sud con i quali il sud imbelletta le sue pietanze, hanno anche una ragione d'essere. Le spezie, la via della seta, la via delle spezie. Perché le spezie? Perché si è dato tanto valore e significato alle spezie? Perché, e questa è una banalità, una cosa banale, perché le spezie, lo saprete immagino, ma io voglio ricordarvi una cosa che sapete, servivano a dare sapore a dei cibi che sapore non avevano. Anzi, avevano un sapore sgradito, perché la carne una volta non la si custodiva nel freezer o nel frigorifero, quindi di riflesso sapeva odore. Allora via con le spezie. Le città sapevano odore, ecco, c'erano fognature, c'erano i cimiteri in città. Napoleone cosa fece? Napoleone prescrisse che i cimiteri fossero portati fuori dalla città, perché gli odori che allora si sentivano. Avete letto Siskind, il profumo in particolare, no? In questo libro, il profumo per l'appunto, si parla del profumo come tale, dei risvolti, del perché, del come, del profumo, e a un certo punto si fa accenno anche a un personaggio. Adesso terminerò questo mio lungo proloquio, perché non è di me che ci deve parlare, è di me che ci deve sentire, perché una volta ci si profumava con gli unguenti. I romani, vi ricordate, si profumavano con gli unguenti. Poi dal 1600 più o meno in poi c'è stato qualcuno che ha inventato il profumo come lo intendiamo noi. Il profumo cioè affidato ad una sostanza volatile, l'alcol, no? Adesso noi usiamo quel tipo di profumi. E questo personaggio, sapete come, è un personaggio importante che Siskind cita nel suo libro, sapete come si chiamava? Si chiamava Muzio Frangipane. E voglio portare un po' l'acqua al mio volume. Non hai citato il fiore di frangipane nel tuo libro, questa è una cosa che è per la volta prossima, insomma, per la volta prossima. La nostra prossima saremo in Perù e quindi magari non pensavo che questo mio romanzo potesse suscitare tutte queste riflessioni di profumi, di cose, essendo un giallo pensavo fosse un po' più, come sai. Questo romanzo nasce da un fatto reale, che proprio sia stato scoperto al sud. Una ricercatrice del Salento, nello studiare, nel ricercare personaggi illustri del suo paese. Abbiamo anche la musica, Abbiamo anche la musica. Del suo paese. Sentiamo un po'. Nel ricercare personaggi illustri del suo paese, cosa scopre? Scopre una seicentina di un medico poeta di Latiano, appunto, Francesco Antonio De Virgilis, e riesce a trovare una copia di questa seicentina in un convento a Lecce. E cosa scopre leggendo questa seicentina? Scopre che è una fonte estesa del pessimismo leopardiano. Lei è insegnante di lettere, legge questa cosa e rimane sconvolta, perché mai avrebbe potuto immaginare che questa potesse essere una fonte di ispirazione del Leopardi. Ci stiamo avvicinando al titolo Non uccidete i leopardi. Quali leopardi? Ecco, i leopardi del romanzo sono due. Uno è Giacomo, appunto, di cui stavo dicendo questa scoperta, che poi non è stata affrontata dai professori, dai grandi professori di letteratura con il dovuto impegno, un po' glissato, perché forse, ma insomma, io penso che qualsiasi grande artista si sia potuto ispirare, si è ispirato al passato, non è una cosa che possa ridurre la grandezza di un artista, di un poeta come Leopardi in particolare. L'altro Leopardo è invece un personaggio del romanzo, un certo Leo Papaleo, che è stato soprannominato dai suoi Leopardo perché è velocissimo nel fare gli affari, nel capire le cose, e quindi i leopardi sono due, sarebbero scritti in minuscolo nel titolo, quindi i leopardi. Io direi adesso, se magari vogliamo leggere ancora qualcosina, e prima di passare alla lettura, il romanzo parte appunto da Bolzano, ci sono i due personaggi, che sono due personaggi bolzanini, Paolo e Cristine, che partono da Bolzano e vanno nel Salento. Vengono chiamati nel Salento perché c'è un rapimento. Il rapimento, il marito della rapita pensa che chiamando, che conosceva già, due investigatori di Bolzano possano presentarsi come acquirenti di reperti archeologici, e quindi entrare nel mondo omertoso dei trafficanti di reperti, i cosiddetti tombaroli, sia per gente che viene da fuori un po' più facile. Ecco, avete sentito il momento del rapimento, prima attraverso le parole della nostra attrice trattino lettrice, sentiamo questo prossimo brano. Esce dal fronte principale della stazione, la cui facciata in porfido denuncia la sua costruzione durante il ventennio fascista. Si ferma per qualche secondo a guardare la piazza dall'alto, prima di scendere i gradini che l'avrebbero portata al livello stradale. Lo vede in piedi davanti alla macchina dall'altra parte della piazza, sulla quale si affaccia uno dei palazzi provinciali dall'andamento sinuoso, di impianto quasi barocco, progettato dall'architetto Zögeler e coronato dalle sculture di Guido Anton Nuss, molto criticate dagli iconoclasti, assassini della fantasia, gli stessi che hanno generato spocchiosi collezionisti di arte contemporanea che ignorano la storia dell'arte e sono incapaci di valutare i contenuti in una forma antropomorfa, per il terrore di non apparire alla moda. Trova deliziosamente dissacranti queste figure fantastiche, ma essenziali, di donna che sovrastano il palazzo che lo scultore aveva immaginato come cariatidi a sostegno del tetto. A lei evocano le polene di navi ormeggiate in porto. La sensazione di piacere nel ritrovare il padre e di tornare a casa viene annullata per qualche istante dal pensiero del suo matrimonio andato a catafascio. «Fatto un buon viaggio?» chiede il padre mentre l'abbraccia. La domanda banale le fa capire che il padre vuole evitare di chiederle come si sente. «Sì, tranquillo, non c'era molta gente, così ho potuto leggere, ma soprattutto pensare a come superare questa situazione». Sei sempre stata molto forte e disincantata. Forse volevi dire cinica? La mia creatura cinica. Direi piuttosto realista e molto pragmatica, ma andiamo a casa che ho una novità da riferirti. Cristina si allaccia alla cintura di sicurezza e pensa che sia meglio aspettare di essere a casa per la novità, anche se le costa tenere a bada la curiosità. La casa di famiglia, ereditata dalla madre e ristrutturata dal padre, è situata in via San Quirino, a pochi minuti dalla stazione. Imboccano la via Garibaldi, nota per il sesso mercenario notturno e non solo, per poi proseguire fino al ponte d'Uso. Il ponte, a schiena d'asino del ventennio, in origine contornato da aquile romane di porfido massiccio, poi rimosse negli anni 70 e messe in qualche deposito. Cristine non può fare a meno di ricordare quello che le aveva detto la madre su tirolese. Ci sono simboli del regime molto più offensivi di queste aquile cicciotte per gli abitanti di questa terra, che sono ancora lì, bene in vista, tracotanti e arroganti. Proseguono per viale Druso e al secondo semaforo imboccano la via San Quirino per svoltare a sinistra nella stradina dove è situato in fondo al giardino il parcheggio della casa. Guarda con affetto l'erker d'angolo, con i tre lati finestrati emergere dal tetto spiovente, con una copertura campanaria molto slanciata, con le proporzioni tipiche delle case edificate nei primi anni del Novecento. Salgono le scale fino al terzo piano a piedi. Cristine, abituata al piano terra della sua abitazione e agli ascensori milanesi, sbuffa. Il padre sorride. «Vedrai che dopo un po' di allenamento non ci farai più caso. Prima o poi lo installerò». Era convinto che un ascensore avrebbe snaturato l'architettura dell'edificio. Cristine, quando rientrava in quella casa dove era nata e trascorso la sua giovinezza e dove nulla era cambiato da allora salvo il televisore e qualche mobile, aveva la sensazione di fare un salto nel passato. Le manca solo di vedere comparire la madre che aveva adorato. Con lei aveva avuto un rapporto di complicità e di fiducia. Le manca quel suo modo di fare pragmatico, ma scanzonato e scevro di moralismi inutili che, a suo dire, non producevano nulla di educativo. Era lei che si meravigliava che non avesse con Paolo un rapporto da fidanzati invece che di sola amicizia. Cristina sa che alla mamma sarebbe piaciuto Paolo come genero. Sospira dentro di sé. Le vecchie ma comode poltrone li accolgono. «Vuoi qualche cosa da bere, da mangiare, forse un caffè?» «Grazie, papà, ma per adesso sto bene così. Ho mangiato un panino in treno. E la novità?» «La novità è che Paolo ha urgenza di parlarti. Pare che abbia un incarico e ti vorrebbe con sé. Vorrebbe invitarci a cena questa sera. Così in fretta?» «Ma pare che domani o dopodomani debba andare in Puglia, ma meglio che te ne parli lui direttamente. Te la senti? Io faccio solo da messaggero. Se vuoi, disdico tutto.» «Papà sta tentando di spingermi a un lavoro che mi assorba le energie in modo che non abbia tempo di pensare a Mario. Si ricorda bene che tra me e Paolo c'è sempre stata una grande simpatia, anche se è sempre rimasta nei termini dell'amicizia. Anche a lui, come alla mamma, sarebbe piaciuto che tra noi ci fosse stato qualcosa di più. Forse anche a me», ironizza dentro di sé. «Comunque ha ragione a spingermi verso un altro lavoro. Devo tenere la mente occupata». «D'accordo? A che ora e dove?» vede suo padre sogghignare soddisfatto. «Al Weissensee, verso le 8, te la ricordi la vecchia Stube? Prima ci aspetta al bar dell'Hotel Città per un aperitivo verso le 7. «Certo che me lo ricordo. Cucina tipica tirolese, ci andavamo con la mamma e dopo che è mancata mi pare che non volessi più tornarci. È vero, ma ho pensato che dopo tanti anni, e poi quel posto che piaceva alla mamma, ti porterà fortuna. E siamo ancora a Bolzano. Dobbiamo spingerci verso sud, però prima voglio precisare una cosa riguardo a questo libro, che i discorsi si svolgono praticamente su due piani. Ecco, questa è una cosa che non ho chiarito con Alberto, ma adesso ve la voglio dire per una maggiore e migliore lettura di questo libro. E Alberto immagina che le persone parlino, come avete sentito, discorso diretto, no? Virgolettate in un certo modo, però le stesse persone pensano anche, e pensano sotto forma di discorso, e quindi alle volte si può fare confusione tra il pensato e il detto. E allora Alberto, per evitare questa confusione, cosa ha fatto? È ricorso a delle virgolettature diverse. Si pensa in un certo modo, tra certe virgolette, si dice il pensato in altro modo, con altre virgolette. È una cosa banale, però mi pare simpatico, perché in effetti quando si dice, si riferisce del pensiero di una parola, di una persona, il solito vuole che si dica la cosa senza precisare che viene prima pensata e poi detta. Insomma, è una cosa forse un po' complicata, però io l'ho ritenuta così, l'ho sentita così e così la dico. Siamo ancora nel nord, si è detto, no? Siamo approdati addirittura al Weißwurzel. Ecco, invece il sud ci viene incontro, come dicevo prima, con i suoi profumi, con le sue pietanze, con la stessa presenza dei messapi sottoterra. È una cosa curiosa che può colpire, questa, l'attività dei tombaroli, che qui da noi non è conosciuta. C'è del sud anche in maniera che tocca di più, ci sono dei personaggi che hanno dei nomi strani, come Cristiano d'Altavilla, no, non è Cristiano. Tancredi. Tancredi. Tancredi, chissà perché è cristiano, deve essere una componente cattolica che mi spinge in quel senso. Tancredi d'Altavilla, Costanza d'Altavilla si chiama sua moglie o sua sorella? È la moglie, ecco. E per fortuna che lui l'ha letto il libro, così può spiegarmi le cose. Poi c'è un paese che ha un nome bellissimo, Sant'Agata dei Goti. Quello in campagna. Ah, è in campagna, ma sempre nel sud, insomma, ecco. Mi ricordo quando, aggirandomi in quelle zone, io ho trovato la tomba di Rotari, per esempio, è nel Salento, sempre, mi pare, no? In Basilicata, per me Salento, Basilicata, Calabria, sono tutte quante cose che vivono nella loro realtà nel sud, che ha dato i natali ai miei nonni, ai miei bisnonni, ai miei trisauri, e via, e via, e via. Non voglio elencarli tutti, naturalmente. Bene, io credo a questo punto di poterti fare una domanda, perché sei qua per parlare, tu hai scritto e adesso parli e dici. Dunque, noi siamo arrivati al sud. Siamo arrivati al sud, abbiamo cominciato a scavare, come abbiamo sentito prima, e perché questo personaggio, questa signora ha questi interessi al sud? Di cosa è proprietaria? Perché? Cosa ha inventato, prodotto e presenta? Allora, adesso parlerò della signora Vittoria Petrosillo Ribezzi, e volevo specificare che probabilmente c'è uno sfasamento temporale tra la lettura e quello che andiamo a raccontare, però è difficile coordinarsi perfettamente, per cui la prossima lettura sarà ancora Bolzano. Intanto noi facciamo un balzo in avanti, rispondo alla domanda di Ettore. La signora Ribezzi Petrosillo è una ricercatrice, una donna di cultura che possedeva con la famiglia una parte di questo muro tenente, che è questa necropoli messapica. Il padre, che aveva scavato e trovato dei reperti, le aveva denunciate al museo di Taranto, il quale le aveva sequestrati e messi, come fanno spesso nei musei, in dei cassoni degli interrati, spariti. Poi finalmente vincono la causa col museo e il museo restituisce, riporta i cassoni dagli interrati alla famiglia Ribezzi. La famiglia Ribezzi cosa fa? Non pensa di sfruttare economicamente queste bellissime cose, ma fonda un museo con i propri soldi, senza finanziamenti di nessun tipo da parte dello Stato. Lo colloca in una casa di famiglia al centro del paese, allarga anche l'edificio, non solo, e forma una fondazione e dedica a questa fondazione alcuni appartamenti in affitto perché la fondazione possa sostenersi. Quindi un'operazione, devo dire, eccezionale per i nostri tempi e per sempre, credo. La signora Ribezzi Pietrosillo aveva combattuto assieme al marito, e questa è realtà, non è fiction, poi dopo vi dico come va avanti la fiction invece, aveva combattuto contro i tombaroli che imperversavano, perché dovete pensare che in quei tempi bastava che un contadino passasse con l'aratro in questi terreni, venivano fuori le monete, si rompevano vasi, insomma, e quindi i cosiddetti ladri di reperti archeologici avevano buon gioco. Loro cosa facevano? Comperavano addirittura da questi ladri perché non venissero portati all'estero, perché c'era un florido commercio con i musei europei, i quali poco badavano a come gli oggetti venivano trovati perché fossero autentici. E nella sua battaglia con questo mondo omertoso di tombaroli, fa una battaglia assieme al marito e altri personaggi delle sovrintendenze, per cui quando viene rapita, questo è eso, passiamo nella fiction, non è più realtà, viene rapita nel romanzo, il marito pensa subito che sia dovuto a questo fatto, ecco perché c'è questo aspetto del richiamo dei due, come ho detto prima, dei due investigatori che potevano essere che non erano conosciuti in questo mondo e potevano indagare forse meglio delle forze istituzionali dell'ordine. Io adesso mi fermerei ancora qui, cosa dite? Facciamo un altro passaggio, però saltiamo un po' indietro. Ecco. Come? C'è quello del vice versa, tagliamo uno e facciamo questo. Entrano al vice versa, cavallino bianco, dall'antico portale, inserito tra due finestre dotate di persiane verdi con gli sfondati orlati di bianco. Sopra una decorazione a festoni racchiude le altre finestre della facciata. Dall'ampio locale con il bancone bar passano nella stube antica, foderata di legno scuro scolpito. L'impressione degli ospiti che entrano per la prima volta in quella stube è quella di un salto nel passato. Anche per Cristine, ma per un diverso motivo. Lì veniva con i nonni e la mamma quando era piccola. Cristine fa un lungo respiro, come quando dopo una lunga apnea di caccia subacquea ritornava alla superficie e da un regime di costrizione rientrava alla normalità. La preda questa volta poteva essere la consapevolezza che la sua non è una sconfitta, ma un cambiamento, come le ha suggerito il padre. Dopo queste riflessioni si sente pronta ad ascoltare Paolo con più leggerezza. Ordinano una cena tirolese, canederli in brodo, carré di maiale con crauti, patate arrostite in padella con le cipolle e per finire una Sacher Torte. Mentre aspettano le portate, sorseggiano un Lagrein Riserva, vino rosso della cantina del convento Muri di Gries, dei frati benedettini. Cristine guarda Paolo. C'è qualcosa di diverso in lui da come se lo ricordava, magrissimo, quasi efebico. Paolo è sempre molto magro, ma ora ha perso quell'aria efebica. Le spalle sono più larghe, anche il collo non è più così sottile. Conclude l'analisi pensando che doveva aver fatto molto sport e palestra. Intanto lui comincia a esporre quanto le aveva preannunciato. Le cose stanno così. Vittorio Pietrosillo è un caro amico di famiglia, lavorato a Bolzano, ma ora risiede nel Salento, nel suo paese natale fra Taranto e Brindisi. La moglie Vittoria, insieme a lui, ha creato un piccolo museo in cui sono conservati ed esposti reperti messapici e oggetti antichi, a testimonianza della cultura e dello stile di vita della nobiltà salentina. È un vero gioiello, lo vedrai, che ora appartiene a una fondazione della famiglia, ma te lo descriverò meglio domani se sarai in viaggio con me. Vittorio mi ha telefonato ieri mattinata dicendomi che 2 sere fa Vittoria lo aveva avvertito che si sarebbe fermata un po' di più al museo. Verso mezzanotte aveva chiamato Vittoria sia sul fisso che al cellulare e perché non rispondeva si è preoccupato ed è andato al museo. Quello che lo ha spaventato molto è stato, oltre a non trovarla, notare che era sparito anche il suo computer portatile. Anche l'hard disk esterno e il suo fisso personale era stato manomesso. Ma in che senso manomesso? Ma non è stato molto preciso. Da quello che ho capito, il carter era smontato e è probabile che abbiano portato via il disco fisso. Se non ci fosse stata questa manomissione, forse non avrebbe pensato subito a un rapimento. In un primo momento ho sperato che ci fosse stato un guasto al sistema informatico del museo, ma dopo aver telefonato a Bianca, la nipote di Vittoria, direttrice del museo, ho saputo che fino alle 8, ora in cui era uscita, non era successo niente. A quel punto ha deciso di chiamare il maresciallo dei carabinieri, che lui conosce personalmente, il quale gli avrà detto di aspettare alcune ore che forse avrebbe avuto sue notizie o sarebbe tornata a casa. È proprio così, è la prassi. Del resto, prima che si metta in moto la macchina investigativa, vogliono essere sicuri che gli scomparsi non siano in giro per i fatti loro. Probabilmente voleva solo tranquillizzare il marito. In questo caso si tratta di una signora che il maresciallo conosce e poi a quell'ora che vuoi interrogare lì in paese. E questo è quanto Vittorio è riuscito a dirmi. Era molto scosso nonostante abbia una personalità molto forte. Penso che quando saremo lì sapremo se le indagini hanno portato qualche cosa di nuovo. Ma solo una domanda ancora. Ma perché il tuo coinvolgimento, Paolo? Bella domanda. Qui la storia diventa complessa. Nella zona ci sono molte necropoli delle popolazioni messapiche. La loro famiglia possiede un fondo chiamato Muro Tenente, dove era situata una città nel cui sottosuolo c'è una necropoli. Come ricorderai, i messapi, tu che hai fatto degli studi specifici, erano delle popolazioni italiche insediate in Puglia prima dei Romani e facevano parte del ceppo degli Iapigi, che comprendevano, oltre ai Messapi, i Dauni, i Paucezzi, pare che venissero dall'Illiria. Ricordo molto bene, ho fatto anche una ricerca sull'argomento nel corso di archeologia italica. È anche per questo tuo indirizzo di studi che ti ho coinvolta. Cristina coglie il sorrisetto con cui le ha detto l'ultima frase e pensa che in questo non è cambiato. Su quel sorriso un po' subdolo, un po' sornione, lei aveva più volte ironizzato. Gli scoccia ammettere di aver bisogno di me, consapevole della mia esperienza nel campo investigativo, pensa Cristina. Quando sento leggere queste pagine non mi sembra neanche averle scritte. E in effetti, come avete modo di notare, lo scrivere, il leggere è molto fluido, si legge volentieri, si vedono le scene. Io direi che Alberto ha una scrittura cinematografica visiva proprio, no? I personaggi li vedi e potrebbe essere anche, tra l'altro, il testo per un bel, mi viene in mente Camilleri a questo punto, cioè questo anche là è il Sud che parla, il Sud con cadenze siciliane naturalmente, però l'ambientazione è più o meno la stessa. Camilleri non scrive di archeologia, però io posso raccontare l'esperienza che ho fatto, che vi dico, di un mio amico, carissimo amico, che adesso non c'è più perché se n'è andato nel mondo dei più, che dirigeva un cantiere autostradale tra Catania e Palermo. E mi raccontava, la ditta che costruiva era una ditta bresciana, una grande ditta bresciana. E un giorno mi ha confessato che tracciando lungo l'itinerario che avevano tracciato per costruire un tratto di questa autostrada, le scavatrici hanno cominciato a raccogliere frammenti, piatti, c'era una necropoli. Ok, gli ho detto, che bella cosa, e cosa avete fatto? Li abbiamo buttato tutto per aria e abbiamo spianato. Questo è l'occhio col quale l'affare, e l'affarista spesso in questi casi è un settentrionale, col quale l'affare vede la sua presenza nel sud. E tra parentesi, la butto adesso lì, il discorso dell'Ilva mi sa che puzza della stessa cosa, è uno sfruttare quei luoghi ai fini del guadagno, dei grossi guadagni che può fare il nord. Forse mi sbaglio, ma la penso così. Bene, siamo giunti a questo punto, io penso che potremo andare avanti anche nel racconto, perché a un punto dal racconto, trattandosi di un giallo, non ci può mancare il colpo di pistola. E qua il colpo di pistola, ce ne parliamo, ne vuoi parlare? Quando gli ho detto... No, non vorrei parlare. Ecco, non vorrei parlare, lo immaginavo, perché Alberto vuole lasciare una certa suspense. Ecco. Dice, ah, la gente deve desiderare quel momento, la soluzione non sono io che devo darla. In effetti il giallo lo si legge fino in fondo. Se ti vengono a dire, guarda che l'assassino era il maggiordomo, tu sai che il maggiordomo è l'assassino, sai che sei alla fine del libro o quasi, e finisci con l'odiare anche quello che te l'ha detto, che ti ha rovinato la conclusione, la suggestione della conclusione. Dimmi tu allora niente, volevo dire, tanto per argomentare un attimo anche sul discorso di queste ditte, quando fanno gli scavi e trovano i reperti e poi nascondono, c'è anche una certa, vorrei dire, perché ho vissuto in prima persona quando ero architetto queste cose, c'è anche una certa colpa delle sovrintendenze, perché non sono veloci nel riportarsi via tutti i reperti, possono lasciare anche questi cantieri mesi, e allora chi lavora io non li giustifico, ma voglio dire, se ci fosse una burocrazia meno pesante, che come tu trovi queste cose, vengono, le portano via in una settimana, 10 giorni, sistemano tutto, forse anche elementi meno illuminate non farebbero delle porcate del genere. Ecco, questo intanto così. E volevo solo dire che una cosa di Messapi che mi ha molto colpito, Napoli è una città molto interessante. Poi Alessandra leggerà un pezzo anche in cui compare il museo di Castromediano a Lecce, è un museo bellissimo con reperti molto interessanti. I Messapi ebbero la sfortuna di allearsi con Annibale, per cui sappiamo come è andata a finire la storia, e quindi i Romani li hanno distrutti definitivamente. Io direi che magari possiamo ancora leggere qualcosa, non voglio svelare come finisce la trama, perché ci sono alcune sorprese a ripetizione, che spero piaceranno ai lettori. Ronzino parcheggia sotto una tettoia di canne. Cristina sussurra a Paolo: non mi pare che qualcuno ci abbia seguito. Ho controllato anch'io, ma non ho notato nulla. Ronzino saluta l'oste amichevolmente e questi indica loro un tavolo distante da quelli occupati da alcuni turisti. Paolo inizia a parlare davanti a una tazza di caffè fumante fatto con la moca, dopo un pranzo costituito da specialità pugliesi. Come tu sai, donna Vittoria è stata rapita. Noi siamo stati chiamati da Vittorio per indagare. Sto pensando a un rapimento orchestrato da qualche organizzazione nel mondo del traffico dei reperti. Pensiamo che forse, voi locali, possiate sapere qualche cosa in merito. Vorremmo presentarci in paese come affaristi interessati ai reperti. Avete notato tipi da fuori in questi giorni? Siete stati contattati da qualcuno? Ronzino pare imbarazzato e si muove sulla sedia, quasi a cercare una posizione migliore. Lo sguardo tende a non incrociarsi con quello di Paolo. Paolo, si è accorto del disagio che gli ha provocato con quelle domande così dirette, che forse sembrano mettere in dubbio la sua integrità, e cerca di rimediare. Vittorio è convinto che tu e i tuoi amici non abbiate alcun coinvolgimento in quanto è accaduto, ma forse avete notato o saputo qualche cosa che non volete o potete dire ai carabinieri o polizia. Ecco perché siamo qui. Paolo e Cristina notano che Ronzino, dopo queste parole, si è appoggiato allo schienale della sedia e pare essersi calmato. Ha ripreso a guardare Paolo negli occhi. Sono contento che Vittorio la pensi così. Ero preoccupato molto per questo, ma soprattutto per la signora Vittoria, donna eccezionale che conosco da sempre. La mia stima per lei è grande, è stata anche insegnante dei miei figli e mai potrei pensare di farle del male. Assieme agli amici siamo a disposizione per qualsiasi cosa. Non mi sono fatto vivo con Vittorio perché immagino che la casa e il telefono siano sotto controllo. Penso che la polizia creda che noi tombaroli locali siamo in qualche modo coinvolti. Oggi avrei mandato lì mia cugina per prendere contatto. Beh, meglio così. Immagino che la storia del guasto alla macchina sia servita per seminare qualcuno, eh? Eccola lì, la mente affilata, pensa Cristina. Ci sembra di aver notato una macchina che ci seguiva da Latiano e non ne sono sicuro. Pare però che da Misagne non ci abbiano seguito. Con Ronzino è meglio giocare a carte scoperte. Quando torno al palazzo chiederò al portiere se qualcuno ha chiesto di me. Forse è meglio che superi addirittura tu il microfono, perché va detto prima, mi ha suggerito Alberto, vorrei dire qualcosa su Ronzino, su questo allora è uno dei personaggi che mi avete sentito, si chiama Ronzino, si chiama Ronzino e come esatto. È un diminutivo di Oronzo. Oronzo. Noi abbiamo avuto un famoso Oronzo nella storia della Seconda Repubblica, Oronzo reale, e anche questo è un Oronzo abbastanza reale. Questo è reale, esistente. Naturalmente è un personaggio, esiste, ho cambiato il nome, perché non era il caso di farsi fare la liberatoria anche da lui, come hanno fatto i personaggi reali che mi ha chiesto la casa editrice. Questo personaggio è un... E come l'ho descritto? Pallolino, un minuto, fa il decoratore di professione e a tempo perso scava, trova. Però è un, come si può dire, è un tombarolo pentito, un tombarolo bravo, nel senso che quando trova qualche reperto un po' importante lo segnala all'Università di Amsterdam che sta scavando e lavorando in questa città messapica già da, credo, decenni. C'è questo professor Burger, che è anche reale, anche lui, che porta i suoi studenti, e quindi Ronzino mi ha portato, chiamiamolo con il nome della fiction, mi ha portato a visitare le tombe, mi ha spiegato come fanno. Ecco perché nella descrizione del prologo c'è una descrizione tecnica abbastanza realistica di come si fa a fregare nelle tombe. Che me l'ha fatto capire lui, me l'ha fatto vedere, sono stato con lui una giornata intera in questa città misapica e insomma e ho capito molte cose. Forse volevo dire, un altro personaggio reale è Vittorio, che è il marito della signora, che purtroppo è morto. Io l'ho fatto rivivere nel romanzo, è stato lui a chiamare e appunto Paolo perché conosceva la famiglia e quindi possiamo andare avanti con ancora un Papaleo, che è un altro personaggio, è il secondo Leopardo, come abbiamo detto prima. Leonardo Papaleo si trova nel suo ufficio all'ultimo piano del palazzo in via Sant'Agata dei Goti a Roma, nel Rione Monti. La sede della holding del gruppo Leopardo, con attività in tutto il pianeta. La boiserie di noce scuro disposta sulle pareti della stanza è intervallata da trompe-l'œil con palme e vegetazione tropicale che paiono delle finestre affacciate su qualche giungla. Due leopardi di ceramica sembrano incedere sul pavimento a listoni rosso scuro e nero di legno padù. Una vetrina illuminata contiene una collezione di leopardi, ma anche giaguari, pantere, tigri, leoni di ceramica colorata. Era consapevole di avere creato un ambiente kitsch, ma si era divertito molto. Qualcuno aveva detto che più che Leonardo si sarebbe dovuto chiamare Leopardo, vista la velocità con cui si abbatteva sulle prede negli affari. Con molta autoironia, che a dire il vero dispensava in dosi consistenti anche agli altri, aveva chiamato il suo gruppo con quello che era diventato il suo soprannome, Leopardo. Leo, i piedi sulla scrivania di castagno che assieme alla poltrona su cui è semisdraiato era stata fatta su misura per la sua statura ben al di sotto della media, sta pensando ai sogni in cui gli era apparsa la Santa Agata. Di solito gli appare così, come è rappresentata nel quadro custodito nel Duomo di Catania. Sant'Agata in carcere, il volto colpito da un fascio di luce che durante i sogni si gira verso di lui. La santa lo aveva guidato nei momenti importanti della sua vita, trasmettendogli nei sogni le scelte da fare, che poi si erano rivelate sempre vincenti. Ha completamente rimosso il dubbio che forse quei sogni non fossero altro che sintesi inconsce di ragionamenti fatti in precedenza nella sua mente. La sua devozione per la Santa Agata, protettrice di Catania, la sua città natale, l'ha portato a credere fermamente che sia stata lei a indirizzarlo nella sua vita faticosa, che gli ha dato però la soddisfazione di diventare uno degli uomini più ricchi d'Europa. Quella notte ha sognato di nuovo la santa, che gli ha suggerito, sorridendo, che è giunto il momento di dedicarsi anche ad attività culturali diverse da quelle aziendali. Difendere e aiutare il genio italico, quello poteva essere un nuovo impegno per lui. Alla fine del sogno gli aveva sussurrato di leggere le opere del poeta Leopardi, che sarebbe stato importante per la sua vita. La mattina ha registrato sul computer quanto ricordava del sogno. Come mai Leopardi? Forse perché il suo gruppo si chiama Leopardo, che la Santa Agata volesse trasmettere un messaggio ironico? Non è verosimile, poi non sono doti del suo tempo. Pensa che anche questa indicazione della santa, ancorché molto strana, se non seguita gli avrebbe portato sfortuna e chissà quali sventure. È ben conscio, da persona di notevole intelligenza, che il suo punto debole è quello di essere superstizioso. Con la superstizione comunque ci gioca. Quando in un'intervista gli chiesero se era superstizioso, lui rispose no, perché porta sfortuna. E fino ad allora non ha mai collegato il suo soprannome al poeta. Per tornare a parlare di archeologia, voglio ricordarvi una cosa, che in questa sala periodicamente si espongono dei reperti archeologici, per fortuna che non c'entra il pubblico, mia moglie insegnante di italiano, ecco, ed è una buona idea, è un'idea che è scaturita ancora ai tempi dell'assessore Cigolla, non dico chi l'ha espressa, che è stata quella di vedere, di indagare nei depositi dei musei del sud, quelli in particolare, per vedere se ogni tanto qualche cosa non possa essere trasferito qui a Bolzano ed esposto qui a Bolzano alla curiosità e ammirazione dei bolzanini. Recentemente avrete avuto modo di vedere una statua di giovane atleta in bronzo che è stata esposta là dietro. Io mi ricordo invece altre cose, mi ricordo quando sono stato anni fa Olimpiadi di Los Angeles, a Malibu, dove ho visitato il museo di Paul Getty, che è una raccolta di furti perpetrati, di reperti perpetrati tramite furto, tombaroglio, roba del genere, nella bacina del Mediterraneo e in Magna Grecia, ossia nel sud Italia in particolare, in questo edificio che riproduce la Villa dei Papiri di Ercolano, tra l'altro si trova un Lisippo che è stato recuperato dal mare Adriatico e poi è scomparso stranamente, poi è riemerso una seconda volta e questa volta per l'appunto a Los Angeles, e credo che adesso il Ministero italiano competente si è riuscito a ottenerlo. Solo che c'è da dire una cosa, e adesso mi ricollego in parte al discorso di Alberto prima, che se noi in Italia troviamo qualcosa di bello come il Lisippo in questione, finiamo per sovraccarico, sovrabbondanza di oggetti, di reperti, finiamo col confinarlo in una cantina, in un deposito. In America invece lo hanno valorizzato. Era l'opera più bella che presentavano al momento nella villa dei papiri. A conclusione, vedo che siamo già qua da un'ora, io leggo in certi appunti che mi ha fatto Alberto una cosetta che mi piace. Si parla di un'altra dimensione nella quale il lettore può calarsi. E io a questo punto ti faccio la domanda che tu mi hai scritto qua. Chiedi, cosa intendi con un'altra dimensione? E lui deve dirvi. Ti rispondo con una poesia dal titolo La lettura, tratta da una collana che sto per pubblicare. A questo punto non è più la signora, forse è meglio se la legge lei, la poesia anche se la sente. Non lo so, sentiamo. Non lo so perché vi devo mettere gli occhiali. Alberto Sulligi interpreta La lettura. Allora, io ho sempre pensato, prima di leggere questa poesia, e l'ho detto appunto anche nel romanzo, che siccome gli scrittori devono avere anche un rapporto con i loro lettori di amore e forse qualche volta anche di odio, quando lo scrittore non ti dà tutti gli indizi per arrivare alla risoluzione di un caso, nel caso di libri come quelli che scrivo io, ma ci deve essere un rapporto di affetto e di... Sì, insomma, ci deve essere una complicità tra il lettore e lo scrittore. Io ho scritto questa poesia, però... Ma se vuole... Forse è meglio se la legge, perché Alberto Sulligi non legge La lettura. Deve improvvisare. Scivolo, no, è una cosa migliore accendere il microfono. Scivolo più volentieri in un libro, se mi racconta una storia, se mi fa entrare in un'altra dimensione. Io ci vivo in questa dimensione, il tempo scorre diversamente, non guardo da fuori, ma sono dentro. Non è una fuga, spero una scoperta. Quando finisco la lettura, non con tutte succede, mi sento come quando torno da un viaggio, da un paese diverso dal mio, pieno di ricordi e di rimpianti, il ritorno alla vita vera, ai problemi abbandonati. Mm-hmm. Bello. Fatto bene, fanno bene a lei. Volevo solo dire ancora una cosa sui musei, se Ettore mi consente, ha citato il museo di Los Angeles che abbiamo visto anche noi, con Giovanna abbiamo visitato, adesso Alessandra ci leggerà un pezzo che è attinente con quello che abbiamo appena detto, perché parlerà del museo Monte Castro Mediano, di cui vi ho accennato prima, che se per caso vi capita di andare a Lecce non potete mancare di vedere. E vi dico solo una cosa, che questo museo, quando lo visitavamo noi per la prima volta, aveva l'ingresso gratuito e c'erano gli uscieri, le chiatte accoglievano le persone e io ho detto, ma come, non si paga? No, non si paga. Allora diciamo, abbiamo visitato il museo, una cosa veramente eccezionale. Quando sono sceso io ho fatto un po', mi sono un po' incavolato con loro, ho detto, ma com'è possibile? Parlate con i vostri dirigenti, in tutta Europa si paga, i musei è giusto pagare per entrare perché è una fonte di sostentamento, una cosa. E loro mi hanno guardato con gli occhi così. Quattro mesi dopo Vittoria, la signora Rivenzi Petrosillo, andò con degli amici, li portò a visitare il museo. Io l'avevo raccontato questo fatto a lei. Mi telefonò subito, mi disse, bella cosa che hai fatto, adesso ci fanno pagare. Un anno dopo la creazione della fondazione, il Papaleo si trova a Lecce per l'acquisto di una masseria nella zona di Ostuni che vuole trasformare in albergo. Finita la trattativa, gli suggeriscono di visitare il Museo Castromediano, uno dei più ricchi di reperti archeologici delle popolazioni yapige. Entrato nel museo, si è imbattuto in un gruppo di studenti universitari guidati da un giovane professore, forse un assistente. «Possiamo aggregarci?» chiede con fare sornione prendendo sotto braccio Antonella, che ha svolto in quei 3 giorni di lavoro a Lecce il duplice lavoro di compagna e di collaboratrice. Quello ha stimato essere un assistente, è in realtà un professore incaricato di archeologia, specializzato nelle popolazioni italiche dal loro insediamento in Puglia fino all'arrivo dei Romani. Il professore, che ha immediatamente riconosciuto Papaleo, il personaggio apparso poco prima sulla copertina di un noto settimanale, rivolge ai suoi studenti uno di quei soavi sorrisi per cui era famoso. È morto il microfono. No, questo non era scritto. Per cui era famoso nel mondo femminile dell'università. Visto che avremo con noi due non studenti, non vi dispiacerà se ogni tanto farò alcuni riferimenti storici, così non dovrete neanche fingere che siano superflui. Ecco uno super che sa, con una frase scherzosa, ci ha fatto accogliere nel gruppo senza imbarazzo. Il percorso è durato quasi 2 ore, tra splendidi vasi decorati con figure nere su sfondo rosso e rosse su sfondo nero, con la rappresentazione degli dei ed eroi della mitologia, magicamente esposti dal professor d'Altavilla. Alla fine Leo e Antonella sono stanchi ma entusiasti. Il professore con abilità congeda i ragazzi per rimanere solo con loro. Professore, permetta che la presenti la mia collaboratrice Antonella, io mi chiamo Leo Papaleo. È molto piacere. Io sono Tancredi d'Altavilla, naturalmente l'avevo riconosciuta. Il suo impegno nel campo culturale con la sua fondazione è ormai noto in tutte le università italiane. Sarei ipocrita se nascondessi il piacere che mi fa essere riconosciuto per questi motivi e non solo per il settore finanziario. Posso invitarla a cena con noi e chiunque lei volesse con sé, se non altri impegni. Vorrei proporle una collaborazione con la fondazione. Come al solito, Leo ha dato la sua zampata. Gli sono bastati pochi secondi per mettere a punto un nuovo programma che preveda la cattura di un nuovo elemento per la fondazione, o meglio ancora per la confraternita di Sant'Agata, che quel matto del vicepresidente gli aveva proposto come consiglio più ristretto all'interno del CDA per studiare le strategie su cui indirizzare la fondazione prima di renderle pubbliche. Sa già che il suo vice farà qualche resistenza. Ultimamente è diventato geloso delle sue idee. In quei 2 anni è cambiato, sempre molto efficiente, ha portato la fondazione a livelli di eccellenza notevoli. La fondazione Leopardo, anche in campo internazionale, è oramai conosciuta da tutti gli operatori culturali. E nonostante tutto ciò, Leo ha delle strane sensazioni. E lui alle sensazioni, alle intuizioni, dà molta importanza. Non riesce ancora a mettere a punto un ragionamento sul cambiamento di Luca. Voglia di maggiore potere? Mar sopporta il suo controllo? E ultimamente gli sembra un po' nervoso. Grazie, molto volentieri faccio una telefonata a mia moglie. Si allontana verso l'uscita del museo con il cellulare all'orecchio. Quando rientra mette in moto tutto lo charme che possiede, che è già notevole anche quando non si impegna, e scagliando uno dei suoi sorrisi verso Antonella, mia moglie Costanza, io avremmo il piacere di invitarvi alla nostra masseria, è ancora un po' sgangherata ma ci stiamo lavorando. Si trova vicino a Oria, sono circa 70 km di superstrada e poco meno di 50 di strada normale. In meno di un'ora potremo essere lì. Sono in macchina? Altrimenti potrebbero venire con me, con il mio vecchio gippone Land Rover, così posso accompagnarvi. Il presidente è già intenzionato ad accettare, lancia uno sguardo ad Antonella, che gli sembra entusiasta. È di sicuro un segno del destino. Questi cambiamenti di programma gli piacciono moltissimo. Grazie, accettiamo molto volentieri. Abbiamo la macchina, è sufficiente che telefoni all'autista che verrà a prenderci. La potremmo seguire, così ci indicherà la strada. Di che colore è il gippone? Quel colore bianco avorio tipico delle Land Rover con un po' di ruggine qua e là. Tancredi Gualtiero d'Altavilla è l'ultimo discendente di una nobile famiglia, il cui capostipite pare fosse un soldato di Ventura al soldo di Federico II, poi divenuto suo feudatario. Il padre di Tancredi era riuscito a lasciare in eredità al figlio maschio l'ultimo gioiello di famiglia, la malconcia masseria vicino a Oria, salvata dall'inettitudine degli antenati che non avevano gestito in prima persona l'enorme patrimonio. In quella masseria era nato ed era vissuto con la famiglia al limite della sopravvivenza. Tancredi, nonostante i pressanti inviti del padre a non studiare troppo per occuparsi della tenuta agricola annessa alla masseria, si era laureato in lettere e poi in archeologia, intraprendendo la carriera universitaria. Le sorelle sposate vivono a Roma, l'azienda agricola era stata tenuta in vita dal padre. Contrariamente a quanto aveva sempre pensato, che alla morte del padre l'avrebbe venduta, in quel momento Tancredi decise di tenerla. Al tempo si stava occupando di reperti archeologici risalenti alle popolazioni Iapige, in particolare a quelle messapiche, di cui era diventato uno dei massimi esperti. Leo Papaleo, dopo una telefonata con richiesta di informazioni su Tancredi d'Altavilla e successiva confortante risposta, è stato molto attento al percorso nel caso avesse dovuto tornarci da solo. Le previsioni di Tancredi d'Altavilla si rivelano esatte. In 50 minuti svoltano dalla strada provinciale a sinistra per imboccare una via in terra battuta larga 5 metri. Nota che la strada è leggermente in salita e diritta. Intravede poco distante quello che deve essere il muro di cinta della masseria, alto circa 3 metri. Il sole sta tramontando. La masseria è edificata in una posizione più alta della campagna davanti. Papaleo si chiede se sia situata sopra una collinetta artificiale o fosse solo una pendenza naturale del terreno. Tancredi, mentre guida, sta pensando che avrebbe dovuto ritardare la partenza da Lecce con qualche diversivo per arrivare alla masseria dopo il tramonto. Così non si sarebbe notato il muro di cinta, una volta rosso, scrostato in cattive condizioni. Non puoi immaginare che Leo, invece, ha valutato positivamente quell'aspetto, ammirato dal fatto che un giovane professore, probabilmente squattrinato, avesse avuto il coraggio e la volontà di mantenere una proprietà di quelle dimensioni sicuramente ereditata. Apprezzava senza invidia un uomo come Tancredi, che ha ritenuto di conservare con fatica le vestigia della famiglia. Ci sono tutte le premesse per una nuova e interessante conoscenza e forse di una nuova amicizia. Queste sono le cose che più gli piacciono della vita, perché sono rare. Le conoscenze casuali, quando la qualità delle persone è palese, lo intrigano. Le conoscenze abituali sono quelle costruite per lavoro, tutti sanno tutto di tutti, i dossier sono sempre esaustivi e nulla è lasciato al caso. Ma così non c'è spazio per la scoperta. Entrano con le macchine dal varco tra i possenti pilastri quadrati sporgenti dal muraglione. Non si perderà alcun dettaglio di quella costruzione. È così concentrato nell'osservare che non si accorge che Antonella gli sta parlando finché lei non lo tira per la manica. E Leo, non pensi sia il caso di portare alcune bottiglie di Krug che sono nel filo del portabagagli? Ma certo, se non ci fossi tu ero troppo preso da questa casa, da questo incontro. Antonio, puoi prendere per favore le bottiglie di champagne dal frigo? Lasciane una di scorta, non si sa mai. Mi farò indicare un buon ristorante per te. Antonio è con il presidente da 25 anni, uomo di assoluta fiducia, è autista e svolge per il suo capo le mansioni più delicate che devono rimanere riservate. Salgono verso la casa. Il portico, formato dall'ampio terrazzo del primo e ultimo piano, occupa in larghezza quasi tutto lo spazio tra i muri di recinzione, salvo le due scale di accesso al terrazzo. Lì, tra i pilastrini che delimitano gli archi del portico, gli aspetta la moglie di Tancredi. Sia Antonella che Leo ammirano la bella donna con una grande massa di capelli corvini che li sta accogliendo. Il sorriso prodotto dalla bocca carnosa che finisce agli angoli con due piccole fessure danno al volto, complice il naso appuntito, un che di malizioso. Leo in particolare ammira la generosa scollatura su quel seno molto mediterraneo. Molto piacere di avervi qui, nella nostra masseria, chiamata La Sgarruppata, dal nonno di Tancredi, e speriamo non ancora per molto. Lei, Leo, pensa che la signora era stata molto abile nel far capire con poche parole che la masseria aveva alle spalle una storia di famiglia e che si stanno impegnando per mantenerla e restaurarla. Naturalmente un applauso alla lettura. Vi ringrazio, vista l'ora ormai abbiamo sforato, se qualcuno vuole fare qualche domanda, non lo so, noi siamo qui, sono stati 20, quanto abbiamo a disposizione? 10 no. D'ora, dice. Sì. Beh, se qualcuno vuole chiedere qualcosa, se no ci salutiamo e vi ringrazio di aver partecipato, di essere venuti così numerosi a questa presentazione. Grazie. E se vuole ci sono dei libri che dicono in vendita. Mi vergogno un po'. Posso rubare un autografo per poter...